bene di tutti. Parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Immaginatevi la scena. Siete con un gruppo di amici un bel sabato sera in una distinta pizzeria nel centro del vostro paese o della vostra città, chiacchierando in un clima cordiale e disteso. Dopo una piacevole cena con supplì, pizza, coca grande e birra media, al momento del caffè tutti i vostri amici si alzano dalle sedie e scappano via a gambe levate verso l'uscita, lasciando solo voi, increduli, di fronte al cameriere, con uno sguardo non troppo amichevole nei vostri confronti e in mano uno scontrino chilometrico. Potrete lamentarvi, potrete spiegare al cameriere che gli accordi erano di pagare alla romana oppure ciascuno il suo, ma non ci sarà nulla da fare. Se vorrete uscire incolumi dalla pizzeria senza venir presi a calci dai camerieri, dovrete pagare il conto fino all'ultimo centesimo. Vi sembra una scena improbabile? Benvenuti nel mondo dei contribuenti italiani. Da una parte gli evasori fiscali, gli amici buontemponi che scappano dalla pizzeria prima di pagare. Dall'altra ci siete voi, i contribuenti, costretti a pagare non solo la pizza che avete mangiato e la birra che avete bevuto, ma anche le pizze, le birre, i supplì, i caffè, gli ammazzacaffè di tutti gli altri. Ma cosa succede se il sistema fa sì che i furbi se la sviglino facilmente dalle pizzerie? E perché il cameriere non mette la stessa forza e la stessa acrimonia nell'inseguire chi scappa di quella che impiega per obbligarvi a pagare anche il loro conto? Il discorso del fisco può essere illuminato dal principio di solidarietà che mette in una relazione stretta la persona con la comunità di cui fa parte ed è uno dei modi con cui si esprime la reazione tra singolo e comunità, oppure è solo un gioco al massacro? Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Il principio della solidarietà comporta che gli uomini del nostro tempo coltivino maggiormente la consapevolezza del debito che hanno nei confronti della società entro la quale sono inseriti. Sono debitori di quelle condizioni che rendono vivibile l'umana esistenza, come pure di quel patrimonio indivisibile e indispensabile costituito dalla cultura, dalla conoscenza scientifica e tecnologica, dai beni materiali e immateriali, da tutto ciò che la vicenda umana ha prodotto. Un simile debito va onorato nelle varie manifestazioni dell'agire sociale, così che il cammino degli uomini non si interrompa ma resti aperto alle generazioni presenti e a quelle future, chiamate insieme le une e le altre a condividere nella solidarietà lo stesso dono. Abbiamo in collegamento, carissimi ascoltatori, il professor Armando Gennaro. Grazie per essere con noi, professore. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Prima abbiamo letto un brano riguardante il principio di solidarietà dal tratto dal compendio della dottrina sociale della Chiesa e ci stavamo domandando se pagare le tasse non sia un atto di solidarietà verso la propria comunità e quindi anche verso se stessi, o se si sia solamente insomma un balzello da pagare allo Stato. Ma in realtà noi abbiamo la fortuna che andrebbe riletta di tanto in tanto. La nostra Costituzione determina proprio e dichiara in maniera molto precisa la funzione delle ritenute fiscali e quindi del dovere di pagare le tasse, che è proprio ispirata al principio di solidarietà. Anche la progressività delle aliquote nasce proprio da questo principio: chi ha di più deve dare di più, perché siamo una nazione solidale, poi potremmo allargare, siamo un continente, siamo un pianeta solidale, quindi non c'è dubbio che questo principio va applicato prima di tutto al dovere di pagare le tasse. No, voglio dire, fare l'elemosina senza aver adempiuto all'obbligo fiscale è una presa in giro nei confronti del Padre Eterno, che naturalmente non si lascia prendere in giro, comunque è una presa in giro nei confronti della comunità. Il primo proprio principio di solidarietà è il primo modo di essere solidali, è quello di adempiere i propri doveri fiscali. Non a caso, se posso citare, c'è un bellissimo documento sull'impegno politico, diciamo, sull'educazione, meglio la politica, quindi al senso della comunità, dei vescovi del Triveneto, che dice proprio questo: c'è un primo livello di impegno politico che vale e per tutti, nessuno eccettuato, quindi che tutti devono adempiere, e si traduce in un leale rapporto con le istituzioni a partire dagli adempimenti fiscali. Questo è da 20 anni che se lo dicono i vescovi nostri. Rimandiamo dopo questi ragionamenti, ecco, sul dovere di pagare le tasse, sull'evasione, sull'elusione fiscale da parte di quelli che i giornali definiscono, forse con un vezzeggiativo, furbetti. Iniziamo con brutalità. Il sistema fiscale italiano ha raggiunto un punto di non ritorno? Si tassa troppo, si tassa male? Si tassa male, anche troppo rispetto a quelli che sono standard del mondo occidentale, ma soprattutto male. Teniamo però presente che dovremmo prima o poi come italiani porci il problema di avere 2.000 miliardi di euro di debito pubblico, che ci costa un centinaio di miliardi all'anno, che vengono sottratti ai servizi sociali, alla scuola, alla ricerca, all'università, giusto per parlare un po' anche di casa mia, all'innovazione, allo sviluppo, a essere solidali con chi sta peggio e quant'altro. Allora, se non ci poniamo questo problema, come purtroppo ce lo si è posto troppo poco in questi ultimi 30 anni, perché poi questo debito pubblico è montato dal 1980 in poi, e si è accumulato, se non ci poniamo questo problema, al quale non c'è alternativa, bisogna far fronte con un prelievo fiscale. Quindi se il prelievo fiscale serve ed è orientato a ridurre il debito pubblico, ha una finalità molto più precisa e importante. Che poi si tassi male in Italia non c'è dubbio, perché gli unici che sono tassati veramente, almeno per quanto riguarda l'IRPEF, sono i lavoratori dipendenti. Tutto il resto, tra elusione, evasione, marchingegni che esistono e che vengono sfruttati ovviamente dai commercialisti per ridurre il più possibile il livello di prelievo fiscale, è evidentemente una situazione che rende poi squilibrato e iniquo il prelievo a livello di società. Al di là, insomma, del debito pubblico e di quello che le tasse servono, insomma, a ripagare, lei come lo aggiusterebbe questo sistema fiscale? Penso alle recenti tasse che sono state imposte o al fatto, come diceva lei, che forse i più tartassati sono per l'appunto i dipendenti, che si vedono le trattenute direttamente in busta paga. Beh, anche qui bisognerebbe intanto, io credo, introdurre il quoziente familiare, intanto. Poi un sistema di accertamento dei redditi che sia più preciso di quello che abbiamo oggi. Adesso si sta discutendo, mi pare, finalmente anche in Italia della possibilità di documentare tutte le spese, di avere quindi un beneficio fiscale dallo scontrino del caffè alla ricevuta del medico, piuttosto che a quella dell'idraulico e quant'altro. Perché è chiaro che una famiglia si trova, o comunque una persona si trova in grosso imbarazzo quando fa fare un intervento da un artigiano e questo gli chiede, vuole fattura, sì, allora c'è almeno il 21% in più di IVA e poi forse anche qualcosa di più, perché se io devo fare la fattura, dice l'artigiano, poi devo pagarci le tasse sopra. E sa, se uno fa un intervento che gli costa 1000 euro, aggiungerne 200, 210 come minimo, non è proprio una cosa facile, ci vuole una grande capacità di coerenza per resistere a queste tentazioni. Allora ci vuole un sistema di accertamento del reddito che sia molto più efficace. Dopodiché, ripeto, quoziente familiare che tenga conto dei costi e sistema di detrazioni. Ecco, io ho visto con molta preoccupazione il tentativo di ridurre le detrazioni, perché quello è l'unico sistema che consente di perequare. Io penso ad esempio a quando c'è stata l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, che è stata una scelta demagogica e populista. Perché? Perché, tanto per fare l'esempio che mi tocca da vicino, mia figlia e mio genero, che hanno un piccolo appartamento sul quale pagano il mutuo, con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa hanno risparmiato 10 o 20 euro, perché le detrazioni il governo Prodi le aveva già portate a 200 euro per abitazione. E loro pagavano 220-230 euro di ICI, per cui hanno risparmiato 20-30 euro. Io, che ho molti meno problemi economici di mia figlia e di mio genero, che ho la casa, che non ho il mutuo da pagare, ho risparmiato diverse centinaia di euro. E come me, chiunque, insomma, sia in condizioni vicine o simili alla mia. E questa è stata una scelta iniqua. Grazie, Gennaro. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti. Parliamone. Ragazzi. ragazze si lanciano ad occhi chiusi nelle avventure. Qualche volta confondono la bugia e la verità. Seguono l'istinto e l'istinto le aiuterà. Sono treni in corsa che nessuno fermerà. No. Le ragazze decidono il destino dei loro amori. I ragazzi si illudono, ma non contano un granché. Quando ti sorridono è probabile che siano sì, ma quando si allontanano è no. E tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no. Come se non ti importasse più, senza farti mai vedere giù. Si può amare da morire, ma morire d'amore. Testi delle canzoni sono sempre al centro dei discorsi di tutti noi che non conosciamo nemmeno la metà di tutto quel che pensano e dei segreti che ognuna ha. Le ragazze volteggiano sulle ali degli aquiloni e noi innamorati che le seguiamo da quaggiù. Guarda come planano, qualcuna scenderà, ma quando si allontanano è no. E tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no. Come se non ti importasse più, no, senza farti mai vedere giù. Si può amare da morire, ma morire d'amore. Ragazze che sfidano le opinioni della gente, hanno gli occhi limpidi di chi dice la verità, senza compromessi e né mezze misure, sono più sincere le ragazze della nostra età. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori, a Bene di Tutti Parliamone. Siamo in collegamento con il professor Armando Gennaro e stiamo trattando un tema a noi molto vicino, quello della tassazione. Anche di un tema, speriamo, non molto vicino, quello dell'evasione fiscale. Grazie per essere con noi, professore. Grazie a voi sempre. Al di là di tanti mostri che escono sui giornali, gli evasori totali che dichiarano zero e magari hanno lo yacht, la villa in Costa Smeralda, ci sono dei fattori strutturali, organici all'interno dello Stato che agevano l'evasione per certe categorie di popolazione? Prima parlava per esempio dell'artigiano che viene a casa e ti fa la fattura 1.200, senza fattura 1.000 o anche meno. Beh, ripeto, io adesso non sono esperto della materia, però c'è al fondo un problema diverso. Dopo ci sono anche dei meccanismi per cui ci vuole anche chi ha esperienza nel settore, ma il problema di fondo è il problema culturale. Cioè noi in Italia purtroppo non abbiamo la cultura dell'appartenenza a una nazione, del senso appunto di comunanza e quindi di solidarietà, per usare il termine più preciso, che dovremmo avere tra persone della stessa nazione che condividono lo stesso destino e la stessa situazione. Questo problema culturale, devo dire che purtroppo ha visto negli ultimi 20 anni un peggioramento del quale io credo, come cattolici, io mi sforzo di essere tale, dovremmo fare un grosso mea culpa. Io penso in questi anni quanti discorsi abbiamo sentito fare sul fatto che la tassazione è troppo alta, che per cui addirittura un Presidente del Consiglio è arrivato a dire che è giustificata l'evasione fiscale di fronte a una tassazione così alta, quando magari avrebbe dovuto preoccuparsi di ridurre la tassazione e non di giustificare l'evasione fiscale. Ecco, di fronte a questi discorsi la Chiesa, il Magistero della Chiesa italiana è stato sostanzialmente zitto. Abbiamo dovuto arrivare all'anno scorso, 2011, per la prima volta. Il presidente della CEI ha dichiarato, almeno che i cattolici lo sappiano, che l'evasione fiscale è peccato. Ma è prima volta, voglio dire, dalla storia della più recente. Ora, questo problema culturale va affrontato, cioè il senso civico di appartenenza che tutte le agenzie educative dovrebbero coltivare, la scuola certamente, le famiglie, ma penso anche a tutte le nostre gruppi, associazioni ecclesiali e quant'altro, è il punto di partenza, altrimenti in Italia non se ne esce dal problema, perché poi i meccanismi, certo lo Stato può vigilare, può diventare uno Stato di polizia finanziaria, ma non è così che si costruisce una nazione. Sono forti insomma queste pseudoculture che giustificano l'evasione? Purtroppo sì. Lei proponeva un modello culturale basato sulla solidarietà e sulla responsabilità. Sì, ma guarda, io sono stato qualche anno fa, ormai anzi diversi anni fa, sono stato in Giappone e parlando dell'università ci diceva: ma qui iscriversi all'università costa almeno 100.000 euro, almeno, per seguire un corso universitario. E dico: ma è tanto alta? E si dice: però noi sappiamo che questi soldi servono a realizzare un servizio, per cui in Giappone non c'è difficoltà a pagare le tasse perché sappiamo che servono allo Stato per garantire i servizi. E qui in Italia facciamo il ragionamento esattamente opposto: siccome i servizi non funzionano è meglio che io mi arrangi da solo e naturalmente che non dia niente allo Stato. Bisogna proprio fare un'inversione di 180 gradi, un'inversione a U dal punto di vista culturale. Io credo che se non ci impegniamo complessivamente in questa direzione, troveremo qualche tattica, qualche marchingegno che magari renderà le cose meno inique di quanto non siano oggi, ma certo non la soluzione di un problema così fondamentale, perché ripeto, il prelievo fiscale è lo strumento principe, non è l'unico, ma è lo strumento principe e condizione necessaria per parlare di solidarietà nella comunità nazionale. I giapponesi sono un popolo straordinario, solamente per rimanere in piedi con il 220% di debito pubblico, grazie ad uno Stato comunque efficiente e ad una popolazione pronta a rispondere non solo con le tasse ma anche a comprare il proprio debito pubblico, deve essere magari preso in esempio, un popolo più caldo ma magari un po' più responsabile come loro. Sì. Le propongo una visione un po' utopica per concludere. Se domani mattina ci svegliamo e tutti quanti si recano alle poste, pagano gli arretrati e decidono che di punto in bianco, stiamo parlando chiaramente di un caso fantascientifico, però proviamo a sognare, domani mattina tutti alle poste, tutti pagano le tasse pregresse e si impegnano a pagare fino all'ultimo centesimo l'imbianchino che fa il lavoro in casa, il dentista, la tassa scolastica, il biglietto del tram, tutto quanto. Come cambia l'Italia a partire da domani? Beh sì, purtroppo è un sogno. È fantascienza, però ogni tanto attraverso queste iperboli. Ma non c'è dubbio che ci ritroveremo più persone, cioè più esseri umani con tutta la dignità che è data alle persone. Io ricordo che insomma nel Magistero della Chiesa la Gaudium et Spes parla del tema del bene comune, introduce per la prima volta questo concetto del bene comune, che è un'affermazione molto precisa, non è un'utopia o qualcosa di stravagante. Dice Agadio Mespes: il bene comune è l'insieme di quelle condizioni della vita sociale, quindi concreta, che permettono ai gruppi come ai singoli di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Questo è quello a cui dobbiamo tendere. Per tendere a questo, intanto vorrei ricordare che c'è una consonanza perfetta tra questa definizione del bene comune agrarium espresso e il nostro articolo 3 della Costituzione Repubblicana, dove si dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. la Repubblica siamo noi, quindi, quindi siamo chiamati noi con responsabilità a far sì che quel sogno che ho descritto prima, magari non così perfettamente, ma corrisponda a vero. Si avvicini un po' alla volta, ecco, credo che sia importante fare qualche passo concreto per fare, per avvicinarsi. Grazie professore per essere stato con noi, grazie per il tempo che ci ha concesso e per l'idea che ci ha trasmesso, grazie. Buona giornata. Noi carissimi ascoltatori ci troveremo nuovamente la settimana prossima sulle frequenze di Blu Radio Veneto, potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito o potete mandarci una mail per suggerimenti, critiche o segnalazioni a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima! Avete ascoltato? Il bene di tutti, parliamone! Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.